Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Oggi insieme all'Adico di Mestre, l'Associazione Difesa Consumatori, con noi il presidente Carlo Garofolini al telefono. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi parliamo di una cosa che è storica, perché non era mai successo fino ad ora. C'è però una buona notizia per chi ci ascolta e chi magari nel tempo, negli anni, ha avuto dei problemi con delle bollette pazze. Certamente, parliamo di una sentenza storica che il Tribunale di Venezia ha riconosciuto all'Adico. E proprio per quanto riguarda una vicenda di bollette, che in particolar modo in questo caso la controversia si articolava tra l'ENI e un nostro socio, il quale sostanzialmente è andata a ribadire come la prova di un invio di una bolletta da parte di un fornitore non può costituire una prova. Per cui una situazione che veramente apre dei grandi spiragli, perché fino ad oggi troppo spesso capita che i gestori, a fronte di quelle che sono delle bollette rimaste insolute, pretendono il saldo o il pagamento degli arretrati, quando magari ci sono delle persone, come nel caso del signore che si è rivolto a noi, questo servizio non l'ha mai ricevuto, e quindi parliamo sicuramente di un fatto che aprirà grandi scenari e grandi sviluppi da oggi e per i prossimi anni. Cioè, fammi capire, in questo caso chi si è fatto aiutare dall'Adico non aveva ricevuto il servizio proprio della fornitura di gas, ma aveva ricevuto le bollette? Sì, allora ti spiego un po' la vicenda. Un signore si è rivolto da noi perché Eni gli contestava il pagamento di bollette dal 2002 fino ad oggi, e parliamo di addirittura di un decreto ingiuntivo che il signore in questione aveva ricevuto per un ammontare di oltre 2.600 euro di forniture di gas. La persona in questione si è rivolta all'Adico sostenendo che lui non deve e non capisce perché doveva pagare questi importi, avendo nel 2002 cambiato residenza, dalla Calabria si era trasferito in Veneto, per cui non riusciva a capacitarsi, come avrebbe mai potuto consumare questo gas nei 10 anni in cui là non ci abitava più. E alla fine praticamente l'ufficio dell'Adico ha preso in carico questa situazione, e chiaramente Eni si è opposta in giudizio a quelli che sono stati i tentativi di risoluzione che i nostri uffici hanno tentato di portare avanti, finché il giudice ha dato ragione a questo signore di Marghera, in quanto mentre Eni presentava come prova le fatture emesse, e il giudice ha stabilito che non possono assurgere a prova dell'avvenuta fornitura, in quanto le bollette emesse nell'ambito del rapporto di utenza hanno una natura di atto unilaterale, e quindi contabilmente parlando è idoneo solamente a fornire una prova del credito, ma non realmente di quello che il nostro socio può secondo loro aver consumato. Per cui in questo senso il giudice ha accolto la nostra opposizione, il decreto ingiuntivo viene così meno, e sinceramente si apre una sentenza veramente che può fare storia, perché oggi tante volte ci troviamo delle persone in situazione di difficoltà solamente perché qualcuno ti manda una bolletta e pretende che tu quei consumi li hai effettuati, anche se magari si è cambiato di operatore o di gestore, non so, molto tempo prima. Sì, è veramente una cosa interessante. Quindi il solito consiglio che possiamo dare a chi ci ascolta qual è? Beh, certamente il consiglio più importante, e anche un ricordo che voglio dare di questa vicenda, è che una volta per tutte definitivamente non possono essere portate in giudizio quelle bollette che sono antecedenti agli ultimi 5 anni, tant'è che quelle che erano dal 2008 al 2002 non sono neanche state prese in considerazione, come in questo caso il fornitore aveva tentato anche di mettere assieme. La seconda cosa, quando capitano queste cose, ricordarsi di non farsi intimorire da quelli che possono essere anche dei tentativi che noi chiamiamo di estorsione, per il modo con cui si articolano da parte di alcune società di credito, che in maniera troppo automatica tendono a perseguitare i creditori di cui ricevono mandato da queste società che erogano i servizi, ma ecco, informarsi e soprattutto anche nel caso contattarci, perché un importo con una bolletta non determina per forza di cose che noi dobbiamo pagare se siamo in grado di dimostrare che insomma quella fornitura non l'abbiamo consumata. E in terzo luogo comunque ricordarci che è sempre meglio conservare tutta la documentazione cartacea quando si devono parlare di bollette, forniture e quant'altro, perché poi quando accadono queste cose ricostruire quelle che sono le posizioni diventa sempre alquanto complicato. Ecco, sto pensando nel caso uno avesse un famoso RID, cioè i pagamenti automatici che avvengono in banca, dove magari ti trovi il prelievo e poi ti arriva la fattura. Questo purtroppo sono i casi anche più comuni, perché addirittura ci sono persone che si sono trovate a sconfinare con il conto proprio perché gli sono arrivati dei conguagli, dei addebiti in banca addirittura prima che arrivasse il cartaceo. Certamente in questo caso non entrava nella specie del signore, però certo che se dovesse capitare non è che sostanzialmente questo modo di operare cambia, però se dopo andare a recuperare i soldi anziché non pagare può complicare ulteriormente la pratica. Però certamente questa situazione che si è determinata vuole sicuramente dare un segnale a chi fino ad oggi troppo allegramente mandava delle bollette intimando di dover pagare, quando soprattutto c'erano dei cambi di fornitore e quindi le persone anche a fronte di 50, 70, 80 euro magari pagavano per non incorrere a costi aggiuntivi rispetto a quello che doveva essere una pratica che magari tenevano chiusa qualche anno fa. Ecco, in questo caso ricordiamo che il giudice ha anche condannato il fornitore a pagare le spese legali, perché ecco, bisogna anche aggiungere che quando si deve arrivare a questo tipo di attività qualcosina bisogna dare solamente anche per i costi che vengono richiesti per presenziare davanti a un giudice, però parliamo ecco, di costi molto molto contenuti che noi come associazione anche aiutiamo a sostenere, che riguarda poche decine d'euro almeno per quanto riguarda i contributi unificati. Beh, quindi assolutamente ne vale la pena, soprattutto quando la cifra è sicuramente importante, spendere un po' di tempo e sentire l'Adico per farsi dare un consiglio è assolutamente, credo, necessario. Grazie quindi a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, per essere stato con noi. L'appuntamento con te, Carlo, è fra un paio di giorni. Sì, Francesco, ci sentiamo tra un paio di giorni e colgo l'occasione per salutare tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.